L'appuntamento di oggi è alle 18 in piazza Scavilli. Noi abbiamo pensato di rilanciare un secondo appuntamento dopo ieri sera per coinvolgere tutta la comunità accademica per esprimersi in solidarietà a Patrick. E quindi chiaramente fare in modo che l'Unibo, anche a livello più formale e ufficiale, esprima solidarietà a Patrick e chiaramente poi si faccia anche portatrice di una denuncia contro l'Egitto e contro i crimini che il governo e il regime di Al-Sisi sta commettendo nei confronti del popolo egiziano, nei confronti dei diritti sociali, umani e politici, chiaramente anche nei confronti dell'istruzione, dei saperi e della ricerca. Quindi appunto noi abbiamo pensato di organizzare questo presidio oggi in zona universitaria, in piazza Scaravilli, coinvolgendo anche tutte le altre realtà che erano presenti ieri sera, quindi sicuramente ci sarà anche Amnesty Bologna. Siamo in contatto anche con le studentesse e i compagni di corso di Patrick del Gemma, che hanno organizzato insieme a noi il presidio di oggi. Quindi insomma qualcuno di voi comunque lo conosce Patrick? Noi direttamente no, però sì, cioè sì, ci saranno appunto studentesse, compagne di corso che conoscono direttamente Patrick, sì. Ho visto che sul sito di Link inizia ad esserci già anche un appello. Tu prima dicevi vogliamo il coinvolgimento ufficiale dell'università, ci sono già dei docenti che si sono espressi, qualcosa si sta muovendo? Sì, abbiamo visto che già dei docenti si sono espressi, erano presenti anche ieri sera al presidio in Piazza Maggiore, però sì, sicuramente qualcosa si sta muovendo. È chiaro che dobbiamo attivarci il prima possibile per anche far girare la notizia e fare in modo che insomma il governo agisca subito e non ci sia la situazione di Giulio Regeni, in cui si è pensato comunque di quasi dimenticare la vicenda. Quindi è chiaro che bisogna muoversi subito, agire il prima possibile per far girare la notizia e per pressare il governo. Quindi chiaramente è bene anche se l'università in tutte le sue componenti si esprimano in solidarietà a Patrick. Tu hai evocato Giulio Regeni, ovviamente un parallelo che viene abbastanza spontaneo, sperando che, come dire, l'epilogo sia diverso, ovviamente. Perché è il mondo, diciamo, accademico essere colpito ancora appunto dal Sisi e dall'Egitto, secondo te? Perché chiaramente il regime autoritario di Al-Sisi opprime, rigetta tutti quei saperi che non sono in linea con il regime stesso. Quindi è chiaro che la ricerca, i saperi, l'istruzione, anche come strumento di emancipazione e di denuncia, diventano un problema per il regime. Quindi secondo noi, sia come è successo per Giulio Regeni, questo non è che l'ennesimo attacco al pensiero critico, al mondo della ricerca e dei saperi, connessi comunque a un attivismo sociale, nel momento in cui si fanno strumento di denuncia sociale di un regime che opprime i diritti del popolo egiziano, quindi dei civili, è chiaro che diventa un problema.